Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, e a questo punto parleremo molto di banche ma anche di borsa. Perché lo dico? Perché oggi c'è un recupero fortissimo, come già vi hanno ricordato i nostri GR, dei titoli bancari alla borsa di Milano. Piazza Affari guadagna in questo momento il 3,45%, quindi non solo così le incertezze sui mercati è durata molto poco ieri, perché già verso la metà della seduta le posizioni erano state riguadagnate in molti casi, e commentavamo ieri che non si può parlare di un calo, non si poteva parlare di un calo drammatico dei titoli bancari, visto che molte altre volte abbiamo visto cali analoghi senza nemmeno una crisi di governo. Oggi addirittura Milano guadagna il 3,44%, con Parigi che fa più 1,21%, Francoforte più 0,80%, Londra più 0,40, Dow Jones invariato, grazie in primo luogo al rally di Unicredit, più 9,24%, e ripeto, un dato nettamente migliore rispetto al resto delle borse europee. Tutte le banche premiate: Mediobanca più 8,77, bene, molto bene anche UbiBanca più 8%, Banco Popolare più 7%, Intesa San Paolo più 6,70, come la Pop Milano, Popolare Emilia Romagna Biper più 5,80%, e poi troviamo il primo non bancario A2A più 5,70, Italgas più 5,60, poi Unipol più 5,30, Fineco più 5, Generali più 4,80, Banca Mediolanum non più 4,20. Di negativo c'è poco o nulla, solo Tenaris meno 0,50%. Tra le banche devo dire che sono tutte fortissime oggi, e faccio notare che va bene anche un titolo come Unipol Sai. E in assoluto, se andiamo sulla classifica, in questo momento sui migliori e peggiori in assoluto, c'è Banca Generali che guadagna l'11,34%, il Credito Valtellinese che guadagna il 7,5%, e poi appunto il Banco Popolare più 7%, da questo punto, e Unicredit ovviamente abbiamo già detto il 9,14%, di Mediobanca anche abbiamo già detto. Quindi sono fortissimi i titoli bancari. Che cosa è successo? Ne parleremo, parleremo di banche oggi molto, sia sul fronte Monte dei Paschi, perché il rinvio oggi vertice Monte dei Paschi erano a Francoforte per discutere con la Banca Centrale Europea di possibili dilazioni sulle scadenze del piano di salvataggio. Secondo molti giornali si starebbe rafforzando l'ipotesi di un intervento pubblico diretto nella banca senese, un'ipotesi che aprirebbe le porte all'applicazione della regola del bail-in, quindi coinvolgerebbe a cascata azionisti, obbligazionisti subordinati, obbligazionisti senior, correntisti nella quota sopra i 100.000 euro. Tra l'altro ho anche le due banche che avevano in programma le assemblee per l'11 e il 18 dicembre per la trasformazione in SPA vanno verso il rinvio, e mi riferisco alla Popolare di Bari e alla Popolare di Sondrio, mentre parleremo di un'altra banca che non è oggetto in questo momento di acquisto, mi riferisco alla Popolare di Vicenza, perché il Consiglio di Amministrazione della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca si è tenuto per la nomina di Fabrizio Viola alla guida delle due banche in vista della fusione. Viola è stato scelto dal Fondo Atlante, che lo ricordo è il controllore quasi unico delle due banche, al 99% di Popolare di Vicenza e al 97% di Veneto Banca. È l'unico, infatti, il fondo guidato da Penati che ha sottoscritto gli aumenti di capitale per un totale di 2,5 miliardi di euro. Parleremo però della Popolare di Vicenza, perché con massimo rispetto, ma io racconteremo, cioè, dopo che avevamo già commentato negativamente la buona uscita data a chi la banca l'ha distrutta e ha distrutto soprattutto i risparmi dei correntisti quando questi hanno comprato azioni, ricorderete nel caso della Vicenza, da 67 euro a 40, a 37, poi a zero quasi. Beh, dicevo, Gianni Zonin se ne è uscito con 1.700.000 euro l'anno per 3 anni. E poi c'era anche Sorato, poi darò tutti i dati delle buone uscite, Ma adesso scopriamo che Iorio, Francesco Iorio, che è arrivato alla guida della Procura di Vicenza il 1 giugno 2015, per carità, banca messa in difficoltà, in ginocchio, ha fatto le svalutazioni, trasformazione SPA e fusione, però insomma nei 18 mesi in guida alla banca ha incassato 4.200.000 euro, e tra l'altro l'addio anticipato potrebbe prevedere il pagamento di 2 annualità per un totale che potrebbe arrivare fino a 7.600.000 euro. Questo vuol dire che, a seconda di come si accoderanno le parti, ha guadagnato tra i 7.600 e i 14.000 euro al giorno, e comunque ha già preso 10.000 euro al giorno. Ora, come cavolo immagina il mondo delle banche, dei banchieri, al di là di tanta retorica, di diventare, non dico più simpatico, ma diciamo di essere accettato, quando, ripeto, Iorio non ha nessuna colpa nella distruzione di valore della banca, però, ripeto, ha già ricevuto 1.800.000 euro come bonus di ingresso una tantum. C'è il vice direttore generale Jacopo De Francisco, che è in carica dal 22 giugno 2015, ha percepito 1 milione, di cui 700.000 come bonus di ingresso. Zonin ha incassato 1 milione per andarsene. Samuele Sorato, indagato con Zonin per ostacolo all'attività di vigilanza e aggiotaggio, nel 2015 ha guadagnato 4.600.000 euro. E poi Marino Breganze, 404.000 euro, storico braccio destro di Zonin, vicepresidente, l'ex ragione generale dello Stato Monorchio, 294.000. Ma insomma, ma se la banca è così in ginocchio, io mi chiedo come si possono pagare certi bonus per un anno e mezzo di lavoro. Nessuno contesta il lavoro, ma hai fatto un anno e mezzo di lavoro. E anche di questo parleremo. Invece, e così come parleremo a questo proposito, anche di un dato Istat che fotografa un allargamento della forbice. Noi usiamo spesso l'indice di Gini per capire quanto è la distribuzione del reddito. L'Ist fotografa un aumento della forbice tra ricchi e poveri. L'analisi è su 2009-2014, per praticamente il reddito della parte più benestante passa da 4,6 a 4,9 volte la parte più povera. Metà delle famiglie italiane vive con 2.000 euro al mese, dato stabile nel 2014 e nel 2013 dopo una caduta che proseguiva nel 2009. Sappiamo che proprio sulla divaricazione della forchetta della forbice sociale si sono spese molte analisi, sia per giustificare il successo di Trump negli Stati Uniti, ma visto che parliamo di Italia, anche per analizzare e interpretare l'insoddisfazione della cosiddetta classe media, che vede sempre di più diminuire il suo ruolo, spinta in larga parte verso il basso e in piccola parte verso l'alto. L'Istat ci dice che quasi una persona su due al sud è a rischio povertà o esclusione. C'è stato un peggioramento nel 2015 che ha toccato il 46,4% della popolazione. A questo proposito, fatemi dire che quando dicevamo nel 2015 ci sono le puntate di Focus Economia, uno le può ascoltare, dicevamo attenzione a questo punto ex presidente è ancora in carica, insomma, al governo Renzi, nel cantare troppa vittoria, nell'usare eccessi di ottimismo, nel dire che il paese va svoltato. Da un punto di vista statistico è vero che c'è il segno più, mentre prima c'era il segno meno, ma è un più così debole e il meno è durato così tanto e così, è stato così intenso, che se tu racconti, diciamo, che il paese ha svoltato, quella che a Renzi piace chiamare narrazione, poi uno non ci si ritrova, beh, a quel punto si sente o escluso o sfigato, oppure pensa che tu lo prenda in giro. Ecco, i dati che abbiamo appena illustrato, che sono relativi ancora al 2014 e parte del 2015, beh, insomma, dicono che ci sarebbe voluta maggiore cautela nel narrare un paese che aveva svoltato, perché non basta la statistica, ok? Su questo, ma ormai, diciamo, questi sono errori nella comunicazione che immagino abbiano capito anche al governo, in primo luogo il presidente del Consiglio. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ho visto che stavamo commentando anche la fiammata molto forte di tutte le banche italiane, nonostante tutti, noi abbiamo sempre detto sì, potrà ballare il mercato ma non è la fine del mondo, oggi lo spread è anche in calo, così come a 180 non era preoccupante. Beh, dicevo, sui timori degli investitori per la situazione delle banche italiane e sulle prospettive si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, oggi trasmessi anche come sempre su RDS, volevo dire oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Platerotti. La crisi di governo italiana, le dimissioni di Renzi, l'approvazione delle leggi di stabilità tengono banco sui quotidiani internazionali, ma in realtà dietro le quinte il caso è un altro. Riguarda sempre l'Italia, ma è quello del Monte dei Paschi di Siena. Gli investitori internazionali, perplessi di quanto sta avvenendo e soprattutto dubbiosi sulla possibilità di chiudere in tempi brevi l'operazione di aumento di capitale e di vendita delle sofferenze del Monte dei Paschi di Siena, guardano con una certa preoccupazione gli eventi sulla banca italiana, soprattutto perché anche a livello psicologico molti pensano che non debba sparire nel nulla una banca che è nata prima degli Stati Uniti d'America. Il fatto che ancora non si sia trovata una soluzione all'aumento di capitale non significa però che sia in branco del buio. È probabile, anzi altamente probabile, che la BCE dia più tempo a disposizione al Monte dei Paschi per poter chiudere la ricapitalizzazione che, secondo gli accordi iniziali, avrebbe dovuto essere completata entro la fine di quest'anno. Lo spostamento andrà a fine gennaio, ma questo darà il tempo sia al Paese di avere un nuovo governo e presumibilmente una maggiore stabilità, ma soprattutto darà tempo agli investitori di capire qual è lo scenario italiano. La ricapitalizzazione del Monte è tutta legata ad un'immagine di stabilità del Paese, anche per dare maggiori certezze. Ma la situazione è molto fluida in questo momento e certamente l'obiettivo di tutti, dall'Italia ma compresa l'Europa, è quella di evitare che il Monte dei Paschi diventi quella scossa che toglie all'Europa gli ultimi brandelli di stabilità che ancora ci sono. Insomma, salvare il Monte dei Paschi non è soltanto salvare una banca e i suoi clienti, ma è soprattutto dare l'immagine di un'Europa che è ancora capace di rispondere alle sue emergenze. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Sì, allora è chiaro che questa fiammata delle banche italiane si ha perché si ritiene, a questo punto ne parleremo fra qualche minuto, che l'intervento dello Stato sul Monte dei Paschi non sia più rinviabile o sia la soluzione più forte, e se ne avvantaggiano a cascata tutti, perché abbiamo detto più volte che il Monte dei Paschi è stato è il macigno ed è l'elemento di debolezza per l'intero sistema bancario italiano. Non a caso Unicredit, che deve andare ad aumento di capitale, guadagna il 10% adesso. Poi ci sono le parole anche del commissario europeo Dobrovolskis, che ha detto sostanzialmente che è il vicepresidente della Commissione europea, in contatto con le autorità italiane proprio sul vicenda Monte dei Paschi. Siamo in stretto contatto con le autorità, le quali sono pronte a dare seguito alle misure decise se e quando necessario. E oggi sia Financial Times che Wall Street Journal, con il caso del Monte dei Paschi, tiene banco, e comunque anche lì si ipotizza un salvataggio di Stato per il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo è del Financial Times, è avviso al Monte dei Paschi, dopo la disfatta di Renzi arriverà il salvataggio di Stato. Partirei subito da questo tema, anche perché è il tema di borsa di oggi. Qualcuno mi scrive: ma come? Anche negli Stati Uniti Wall Street, il Dow Jones è al terzo record consecutivo, non doveva avvenire il cataclisma con Trump? Sì, appunto. Devo dire che poi analizzeremo, vedremo cosa succederà al Monte dei Paschi. Abbiamo detto in tutte le occasioni possibili nell'ultimo mese che è stato un errore creare il collo di bottiglia, l'imbuto degli aumenti di capitale a partire dal Monte dopo il referendum, perché significa creare un accavallamento, un imbuto, appunto un insieme di cose in un tempo molto breve, con le banche che devono trasformarsi in SPA, il Consiglio di Stato che rinvia la consulta, e tu hai anche gli aumenti di capitale. A maggior ragione si poteva dire, visto la reazione del mercato, si poteva lasciare aperta anche un'altra ipotesi, l'intervento di Stato, evidentemente. Ma si è voluto tenere tutto in sospeso. Alcuni ipotizzano che fosse una forma, tra virgolette, di ricatto elettorale, cioè se vince il sì andiamo a sistemare la situazione bancaria, sappiate che deve vincere il sì. Io non ho alcuna verifica né alcuna certezza, dico solo le interpretazioni che abbiamo letto in questi giorni e settimane. A nostro avviso comunque è un errore mantenere appese queste operazioni, a partire quella dal Monte dei Paschi. Un'ultima notizia prima di parlare di banche, mi riferisco alla Brexit, perché oggi il capo negoziatore per la Commissione Europea, Michel Barnier, ha detto che i negoziati per la Brexit dureranno meno di 2 anni, e anche Theresa May si è detta d'accordo, la premier britannica: 2 anni sono più che sufficienti per arrivare all'uscita definitiva. In Gran Bretagna il governo starebbe pensando a una qualche forma di documento di identità, di ID come dicono gli inglesi, per i 3 milioni circa di cittadini dell'Unione Europea già residenti nel Regno Unito, che avrebbero una via di mezzo tra, non dico un passaporto europeo, ma una carta d'identità particolare, in modo da poter conservare uno status anche dopo la Brexit. E invece la Germania, per voce del cancelliere Angela Merkel, ha detto: attenzione, per la Gran Bretagna non ci sarà possibilità di avere libero accesso al mercato unico europeo senza accettare la libertà di circolazione dei cittadini. E ha usato un'espressione dicendo: Londra non può scegliersi solo l'uvetta. È un'immagine del panettone tedesco che va mangiato tutto senza potersi prendere solo l'uva passa. Vabbè. Abbiamo capito comunque il concetto. Ma guardi, io non sto infierendo su Renzi, anche se sconfitto. Sto ripetendo quanto abbiamo detto, senza avere nessuna idea di come sarebbe finito il referendum, nelle settimane precedenti, che era un errore arrivare... Ma vada a riascoltare. Il bello della radio è che uno ha le puntate in archivio e può riascoltarle. Non è che... Cioè c'è l'archivio, che era un errore, e che era anche un errore continuare a profetizzare o il diluvio o una ripresa rapida dell'economia su una riforma di carattere costituzionale che, ammesso non concesso che uno lo ritenesse utile, poteva esercitare i suoi effetti in un tempo medio, non in un tempo breve. Non è che ripartiva l'economia a gennaio, febbraio, marzo. Professor Marco Nado, docente di economia degli intermediari finanziari all'Università Bocconi di Milano e editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi, grazie. Senta professore, i rialzi di oggi, io ci capisco poco, per carità, ma adesso Unicredit guadagna l'11,20, UBI il 9,70, Mediobanca il 9,50, il Banco Popolare l'8,40, Intesa San Paolo l'8%, la Pop Milano l'8%, Biperbanca il 7%, e andiamo anche con quello che guadagna meno per alcuni versi è proprio il Monte di Paschi di Siena, da cui adesso arrivo, perché sta ballando come un birillo e si muove nell'indice. Dicevo, tutto questo cosa sottintende? Salvataggio del Monte, eccolo qua, Monte di Paschi più 1%. Credo che sia esattamente quello che diceva prima lei, cioè la situazione del Monte dei Paschi si sa da tempo che è molto grave. È stato rinviato quando sarebbe stato opportuno prendere una decisione almeno quest'estate. È stato anche questo cambiamento al vertice non particolarmente chiaro nei suoi motivi, eccetera. Insomma, quindi è una situazione che si sta gradualmente deteriorando, e a questo punto probabilmente i mercati sentono finalmente odore di un intervento. Detto questo, credo che non solo sia stato un errore rinviarlo e soprattutto farsi scavalcare una scadenza elettorale che con la situazione delle banche italiane non c'entra assolutamente nulla. Ma è stato e continua ad essere un errore quello di cercare di risolvere i problemi uno a uno. Questa volta è nel mirino, da qualche mese, è nel mirino Monte dei Paschi, e si cercano soluzioni, prima di mercato, adesso con l'intervento dello Stato, eccetera. Però il problema è generale, no? Qui non sto parlando soltanto dell'Italia, sto parlando dell'Europa. L'Europa ha un trilione, cioè 1.000 miliardi di euro di crediti deteriorati. E se non cominciamo da lì e se pensiamo di risolverlo uno per uno, Però avremo sempre qualcuno nell'occhio del ciclone, insomma. Diventa gioco, ne colpisci uno per volta, però da quello che capisco io, il fatto che a questo punto si avvicini di molto l'ipotesi di un aiuto di Stato, di un salvataggio di Stato per il Monte dei Paschi, libera, diciamo, il macigno più grosso, perché Unicredit deve andare a fare un aumento di capitale da 13 miliardi almeno, ma non dovrebbe avere grossi problemi. Cioè, il vero bubone era il Monte dei Paschi, se ho ben capito, a reperire questi soldi. Lei ci... Prego. Scusi, l'ho interrotta. No, dico, lei citava, io sono d'accordissimo con lei, la gestione, ripeto, l'accusa che fanno gli altri partiti è gestione elettorale, cioè aver aspettato fino al 5 per... in qualche modo, passatemi in termini, ricattare i correntisti. Io non so se sia così o no. Quello che è certo è che lo stesso Consiglio di Garanzia del Monte dei Paschi aveva scritto: noi dopo il 5 valuteremo se esisterà ancora il consorzio di garanzia per l'inoptato che deve garantire l'aumento di capitale oppure no, in base alla tenuta del governo. E tutti, il Monte dei Paschi ha rinviato di nuovo l'incontro. Cioè, la sensazione era stata che tutti stessero aspettando questo. Domanda: ma non si poteva a questo punto ventilare questa ipotesi prima? Nel senso che il suo collega Francesco Giavazzi dice: tanto, anche se l'Europa non storcerà la bocca, noi dobbiamo farlo perché è più importante la tenuta sistemica del mondo bancario che non l'Europa che ci faccia un richiamo. E allora? Perché si è fatto tutta la manfrina mandare via Viola su indicazione del Presidente del Consiglio, che l'ho detto al Ministro, il Ministro ha chiamato Viola, Padoan, questo lo riferisce a Viola stesso, e le banche di investimento americane, JP Morgan che viene messa lì perché Morelli lì lavorava e di fatto si occupa dell'intera operazione come advisor, mette lì Morelli. Perché secondo lei si è fatto questo? Il perché ovviamente non lo so, perché bisogna essere a Palazzo Chigi o nei dintorni. Quello che posso dire è che è da un pezzo, e anche prima, diciamo, di questa estate, che ci si poteva interrogare sulla opportunità di un intervento pubblico, perché francamente anche nell'ipotesi che mi diceva che l'aumento di capitale poteva funzionare, il fatto che intervenisse il fondo del Qatar non è che mi facesse saltare di gioia, no? Forse altri condividono questa sensazione. Non solo, non è vero quello che si dice, che con il nuovo regime europeo se deve intervenire lo Stato scatta dei lì. Non è vero. E ci spieghi perché? Perché oggi le agenzie dicono... No, perché c'è un articolo, adesso non mi chiede il numero perché non me lo ricordo, c'è comunque un importante studio della Sonim firmato da Nicosi e altri su questo di qualche mese fa, quindi uscito in tempi non sospetti, che dice l'articolo tal dei tali dice che in caso di... quando è in pericolo la stabilità nazionale è possibile l'aiuto di Stato, perché l'Europa proibisce gli aiuti di Stato cattivi, cioè quelli che vanno a violare la concorrenza, che vanno a violare la concorrenza, che tengono in vita imprese decotte e cose di questo genere. Non punisce gli aiuti di Stato in ogni forma. E anche qui, quindi a maggior ragione resta la domanda: perché non si è dato un segnale all'Europa che avremmo salvato il Monte dei Paschi? Oddio, uno potrebbe anche dire che in fase di campagna elettorale annunciare un aiuto di Stato sul Monte dei Paschi avrebbe avuto un effetto negativo della serie mettiamo i soldi per salvare la banca. Per carità, restiamo sempre sulla variabile però elettorale, che a mio avviso è la variabile più sbagliata da seguire, cosa che abbiamo detto nelle settimane scorse. Quando si deve parlare del salvataggio di una banca sistemica e particolarmente sistemica come il Monte dei Paschi di Siena, lei a questo punto può già prevedere delle tappe? Le chiedo una risposta dopo il metodo, la pubblicità, perché poi vorrei concludere anche invece sul Popolare di Vicenza. Sto ricevendo moltissimi messaggi sullo stipendio di Iorio. Ripeto, il problema è vero che il Fondo Atlante che ha salvato Vicenza e Veneto Banca ha finito i soldi erano delle altre banche, quindi sono soldi privati. Il infatti il punto non l'ho posto, se no l'avrei messo nella classifica del venerdì, non l'ho posto come spreco di soldi pubblici, l'ho posto in un altro modo, e cioè quando tu scopri che Iorio se ne va, sì, il giudizio ognuno può avere quello che vuole, ha amministrato una banca, diciamo, ha traghettato una banca verso il fallimento non generato da lui, per poi darla al Fondo Atlante che si è comprata tutta, se ne va e guadagna 10.000 euro, guadagna, mi criticano anche l'espressione, non guadagna, prende 10.000 euro al giorno e rischia di avere una buona uscita del genere, cioè tra oltre 4.200.000 euro incassati potrebbe arrivare fino a 7.600.000 euro. Io mi chiedo come pensa il mondo bancario di, diciamo, riconquistare un po' di immagine positiva nei confronti dei correntisti, perché questa è una banca che non Iorio ma quelli di prima hanno distrutto, e voglio dire, comunque Iorio ha dovuto prendere atto che la banca valeva 0,01 centesimi di euro per azione contro i 62 a cui molti vicentini ce l'hanno, o i 42 a cui molti altri ce l'hanno. Dopo il meteo, la risposta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Di nuovo in diretta, Milano ha chiuso sui massimi più 4,15%, era un po' che non vedevamo un rialzo del genere, Unicredit più 12,80%, Mediobanca più 9,90%, Ubibanca più 9,70%, Pop Milano più 9%, come il Banco Popolare, Intesa San Paolo più 8,16%, Biperbanca più 7%. Se sento parlare di ricoperture metto mano alla pistola oggi, perché ci sarà anche qualche ricopertura, ma c'è dell'altro, come a mio avviso giustamente ci raccontava il professor Onado. Allora, professore, da un lato c'è qualcuno che teme però che in realtà più che l'aiuto di Stato l'Europa ci obblighi a chiedere l'aiuto al fondo salvabanche, quello che utilizzò la Spagna, e teme un commissariamento. Ma in realtà ISM, certo. Però in realtà noi abbiamo il tema, diciamo, da quello che vediamo, solo del Monte dei Paschi, visto così, diciamo, problematico. È vero fino a un certo punto, insomma. No, il problema dell'intervento del fondo salva stati sarebbe nel quadro anche di una diciamo il problema generale dell'Italia, ma insomma non ne vedo in questo momento i presupposti. Ma sarebbe il un problema, commissariamento? Beh, insomma, quanto lo è stato per la Spagna, per il Portogallo. Dover dipendere dalla troica non è certo una bella situazione che non ci auguriamo sicuramente. Il problema è quello che dicevo prima, cioè il problema generale della cattiva qualità del credito delle banche europee. Purtroppo l'Italia è il paese che rappresenta in maggior misura, almeno dal punto di vista quantitativo, perché siamo un paese grande, ma faccio notare che l'Irlanda, che pure ha gettato miliardi nelle sue banche, ha costituito la Bad Bank nel 2009, ha un rapporto di sofferenze su impieghi esattamente uguale a quello dell'Italia. Per questo, secondo me, l'Europa dovrebbe chiedersi finalmente se il vero malato d'Europa è il suo sistema bancario e non la singola banca italiana. Ok, e questo è chiaro. L'ultima domanda per non fare nomi, Deutsche Bank. Sì, insomma, ma infatti sfonda una porta aperta. Commerzbank se la sono salvata quando potevano, Deutsche ancora no, ma salvata. Non riesce a fare un centesimo di utile, quindi salvata. No, ma noi l'abbiamo ricordato molte volte che la Germania ha messo, potendolo fare, 140 miliardi di euro per salvare il suo sistema bancario c'erano anche le Spark Casse lì, le casse di risparmio locali, non c'erano solo i grandi nomi. Mi dice, visto che è il prossimo tema che ho, Popolare di Vicenza, cambio al vertice ma non cambio dell'abitudine. A me, insomma, la battuta è ovvia. Qui va via Iorio, arriva Fabrizio Viola, quello che resta immutato sono l'aute ricompensa agli amministratori delegati. Io non voglio fare un ragionamento, sono società private, oddio, il fondo Atlantis si è preso il 99% della Popolare di Vicenza, per cui resta privata perché i soldi del fondo Atlantis erano del mondo bancario, però poi vedo anche che si chiede ai correntisti un contributo di solidarietà, allora non ci sto più dentro. Ma il principio è un altro, Onado. Se il mondo bancario vuole riconquistare un po' di credibilità, e nello specifico Monte dei Paschi, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Etruria, Chieti, cari Ferrara e cari, che mi sono dimenticato, e Banca Marche, e cari Genova, ecco, arrivo anche a cari Genova, la lista è lunga, ogni tanto mi perdo anch'io. Beh, non dovrebbe iniziare, perché tutti quanti giustamente a fare pulce alla politica, allora abbiamo un paese in cui gli amministratori delegati di gruppi importanti partecipati dallo Stato non possono guadagnare più di 240.000 euro lordi l'anno, che in alcuni casi, lo dico senza problemi, è anche poco se hai responsabilità legali e quant'altro rispetto ai tuoi competitor nel privato. Cioè rischi di fare selezione inversa, prendere chi non è in grado di guadagnare di più. E dall'altro abbiamo un mondo bancario che, insomma, io gliela ricordo di nuovo, in 18 mesi Iorio ha guadagnato circa 10.000 euro lordi al giorno. È arrivato la... comprese? Domeniche comprese, però. Domeniche comprese, vabbè. E Iorio arriva alla guida della Popolare di Vicenza il 1 giugno 2015, ha incassato subito un bonus da 1.600.000 euro e ha siglato un contratto con l'allora presidente Zonin da 1.700.000 all'anno per 3 anni. Ha così incassato nei 18 mesi 4.200.000 e adesso potrebbe beccare 2 annualità per andarsene, quindi arrivare fino a 7.600.000, quindi si oscilla tra i 7.600 e i 13.800 euro al giorno. Non è da lì che deve partire, se no facci solo quello che vogliono, però poi, insomma, prima o poi arriverà anche eBay, Amazon o qualcuno che offrirà servizi bancari e la pianteremo con questi. Tra l'altro amministrando una banca verso il fallimento, lo dico con massimo rispetto verso Iorio, ma non è che hai fatto chissà che operazioni, dato valore, creato chissà che gruppo, Onado. Allora, ci sono due problemi su voi. Il primo è quello del sistema bancario italiano, che di fronte a tutta questa lunga costellazione di dissesti e di mala finanza non ha fatto un pochino di autocritica, insomma, no? Ogni volta sembrava che fosse sparito qualcosa, una crisi dovuta a una fulmine cascato a Ciel Sereno, un vaso di gerani distrattamente lasciato cadere dal davanzale e cose di questo genere. Non è così, cioè, erano episodi di mala finanza, addirittura uno amorevolmente curato dall'allora presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. Che era Mussari, certo. Ma infatti, quando dico che Patuelli, mai una volta che riconosca che c'erano dei ladri lì dentro, che c'è un problema nel principio di remunerazione degli amministratori delegati, perché posso citare anche quanto ha beccato Samuele Sorato, indagato con Zonin per ostacolo all'attività di vigilanza, nel 2015, dopo aver distrutto come amministratore delegato, aver contribuito sì a distruggere una banca, 4.600.000 euro. Poi uno dice la politica, sì. Onado, l'ho interrotto, mi scusi. Nel caso di Vicenza la questione sono due. Uno, nel caso specifico, il vecchio management, no? Il vecchio consiglio di amministrazione è già in odore di irregolarità, di tutto, firma il contratto del nuovo del Salvatore. Francamente, e questo è cane una cosa che non va cane. su cui anche perché poi ci possono essere anche qualcuno può fare dei pensieri un pochino contorti, no? sulla convenienza dell'uscente trattare ma anche di come l'entrante Iorio ha trattato l'uscente, perché ha incassato Zonin per andarsene 1.000.000 di euro, insomma. Ragazzi, allora, cioè, qui poi i sospetti ovviamente nascono, ok? E allora voglio dire, la Banca Popolare di Vicenza ha pagato 2.700.000 euro di bonus di ingresso una tantum a 6 dirigenti, inclusi Iorio De Francisco, e nel frattempo pagava 5.200.000 euro di bonus uscita a 5 ex dirigenti di una banca distrutta. Io non so, c'è qualcuno che... Io quindi credo che in questi casi La Banca d'Italia non ha nulla da dire sulle politiche di remunerazione? La Banca d'Italia non ha poteri di intervento diretto. Io credo però che in una situazione in cui appunto le crisi bancarie si stavano diffondendo, in cui c'erano una norma di carattere generale, da Palazzo Chigi poteva arrivare. Ecco. Infatti, vabbè. Grazie, professor Onada. Andiamo grazie sul traffico e poi ne parliamo con Fabio Pavesi. Focus Economia. Allora, Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Fabio, ti chiedo ancora un po' di pazienza perché vorrei approfittare della tua analisi anche su quello che sta capitando in queste banche, e invece vorrei chiudere in maniera molto breve il commento di borsa, visto che è tutta la puntata è sostanzialmente sulla borsa, con Andrea Fontana, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Prima si diceva l'ipotesi di un intervento di Stato sul Monte dei Paschi libera, diciamo, tutte, fa ricoprire in alcuni casi, ma soprattutto comprare i titoli. Unicredit più 12,80, Mediobanca più 9,90, come Ubibanca 9% anche la Pop Milano e anche il Banco Popolare, Intesa San Paolo più 8, Biper più 7%. Ci sono altri motivi, Andrea? Ma innanzitutto è stato un movimento europeo, perché in Europa il comparto ha guadagnato il 4,5%, le nostre, su cui Unicredit e gli altri sono un po' più sottili, ma Unicredit è quella più importante, insieme a Intesa hanno guadagnato di più il 9%. Gli operatori segnalavano innanzitutto non solo ricoperture sul mercato azionario primario, ma moltissimo sulle opzioni dei prossimi mesi, cioè sui future, sulle banche dei prossimi mesi, quindi ci si aspetta riprezzamento al rialzo delle banche, e circolavano poi anche voci legate a quello che tu dicevi su eventuali fondi importanti pubblici per la messa in sicurezza del Monte dei Paschi, che metterebbe sono voci abbastanza non precise come sempre in questi casi, quindi difficile capire il grado di veridicità. E l'altra cosa da segnalare è che il movimento è stato tutto nel pomeriggio, quindi con l'arrivo degli investitori americani. Sì. Allora, grazie anche per la sintesi. Io cito anche A2A più 6,40, Italgas più 6, Unipol più 5,90, Azimut più 5%, ancora Generali più 5, Enel più 5, Banca Mediolanum più 4,80, Cometerna e Snam di negativo solo Luxottica meno 0,30, in assoluto il migliore Tiscali più 14,20, Banca Generali più 13,5 e poi Unicredit. E anche il credito valtellinese più 8,60%, peggiore Tewind meno 4,70%. Dopo il GR24, Fabio Pavesi, vorrei ragionare, diciamo, Popolare di Vicenza e anche, non so, queste retribuzioni. Qualcuno mi scrive, ma solo se lo paghi tanto uno va a dirigere una banca fallita. Ma mica tanto, secondo me con quelle cifre trovavamo qualcuno. Ma soprattutto anche sul resto del mondo bancario, un ragionamento già ripreso dal professor Onado su che cosa sta scommettendo il mercato. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Waferlago. Waferlago, dolci emozioni italiane. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. 18:07. Allora, Fabio Pavesi, visto che fra poco invece commenteremo l'Istat che fotografa una divaricazione continua e che si è ampliata tra redditi in Italia, beh, insomma, fa ancora più specie quello che stiamo commentando come buona uscita di Francesco Iorio. Molti mi chiedono, tra l'altro, senza aver nemmeno combinato molto. Ora, io non sono un analista bancario, devo dire che con quelle cifre devi veramente aver creato una super banca per meritartele, però c'è anche un giudizio, siamo su quello che ha fatto Iori in questi 18 mesi, Fabio. Sì, sì, io volevo inserire un nuovo caso particolare, Consoli che è stato arrestato. Veneto Banca. Veneto è in causa con la banca perché vuole la restituzione di 3,6 milioni di liquidazione che la banca non gli ha concesso. Allora, questo è addirittura surreale, nel senso che Consoli firmò prima di uscire una sorta di maxi liquidazione ammontante 3,6 milioni. Il nuovo CDA, 6 mesi dopo, dice: ma visto quello che è accaduto, riteniamo che questo compenso non sia dovuto. Ebbene, il dottor Consoli ha deciso di fare causa alla banca, una causa giuslavoristica per ottenere i 3,6 milioni che secondo lui gli spettano. Allora, qui siamo ai limiti del grottesco, non so come dire, nel senso che tu hai citato i casi di Iorio, io cito anche Viola. Viola adesso andrà a presiedere la fusione delle due banche venete, è uscito da MPS con 3 milioni di buona uscita. Allora, Viola è un banchiere rispettato, autorevole, capace, detto di tutti. Però anche qui io mi chiedo come mai nel mondo bancario, come dire, rispetto a situazioni in cui il valore non si è creato, meglio, si è quasi distrutto, al di là della capacità o meno del manager, ci si chiede quanto queste liquidazioni milionarie siano in realtà, come dire, dovute, no? Perché se uno crea valore è giusto che guadagni anche molto, ma se uno lo distrugge dovrebbe avere una retribuzione fissa molto bassa e una variabile legata ai risultati. Qui invece, al di là dei risultati, abbiamo sempre remunerazioni milionarie, che si sia fatto bene o fatto male la musica non cambia. Ecco, ci vorrebbe un po' di sano buon gusto, non so come sì dire, ma chi dovrebbe porre questo, no, tanto buon gusto non c'è in questi casi, però chi dovrebbe porre un limite? Perché Onado prima diceva forse il governo, visto che si è occupato di stipendi della pubblica amministrazione, sì, c'è una leggina, no? Nel senso, non dovrebbe essere difficile legare i risultati alle buone uscite. Poi qualcuno mi scrive: ma se no mica andava a dirigere la Popolare di Vicenza, ma mica gliel'ha ordinato il medico, eh? Cioè, nel senso. Ma hai ragione, ha maggior ragione per banche che sono diventate in realtà pubbliche o parapubbliche. Sono diventate parapubbliche nel senso del termine, ma tra l'altro faccio notare che nel caso di Iorio, a differenza di Viola, il compenso iniziale l'ha firmato l'ex presidente Gianni Zonin. Certo. Quindi questo non apre. Non si era mai assistito a un caso di buona entrata, no? Nel senso c'è la buona entrata, ma mi mancava ancora. Iorio aveva firmato la buona entrata proprio perché diceva la banca è in grossa crisi. Voglio però almeno se modo firmi la buona entrata non hai la buona uscita, non so. In teoria dovrebbe funzionare così in un paese normale, ma forse questo paese normale tanto non è. Il tema appunto è quello che le banche hanno i loro comitati di remunerazione, dovrebbero essere consiglieri indipendenti che quindi non vincolati al potere esecutivo della banca, che stabiliscono le remunerazioni. Poi sappiamo che vengono nominati. Ma io mi chiedo una cosa adesso, ma come si fa a chiedere ai sindacati della Popolare di Vicenza una giornata al mese di solidarietà per integrare il fondo di solidarietà per gli esodi previsti? Sono 700 prepensionamenti su 5.000 dipendenti e poi vai a pagare queste cifre l'ex numero uno. Esattamente quello, il tema vero. Io qui voglio fare invece un esempio positivo. Sì. L'ex presidente di Veneto Banca, Beniamino Anselmi, sì, è vero, se n'è andato dopo 2 mesi, ha rinunciato a ogni tipo di buonuscita, spiegando che la fusione con quel taglio drastico di personale lui non voleva firmarla, perché ha detto: è un problema di mia dignità e di mia consuetudine personale, io non sono disposto a fare macelleria sociale. Se n'è andato in punta di piedi, ha rinunciato a ogni carica dentro la banca e mi risulta non abbia chiesto nessuna buona uscita. Però questo è un esempio virtuoso, purtroppo raro, nel senso di un banchiere che si è sottratto in qualche modo alla logica del cosiddetto mercato, no? E ha deciso che quella scelta non era opportuna. Il problema vero appunto è che poi si andrà alla fusione tra Veneto Banca e Vicenza e il tema vero sono gli esuberi, nel senso che si annunciano maxi esuberi nelle due banche, parliamo di migliaia di dipendenti, perché Veneto Banca ad esempio i costi superano i ricavi tuttora, no? E quindi c'è un problema di mandare a casa delle persone, però proprio perché siamo di fronte a questa situazione. Sì, tra l'altro la buona entrata valeva, è valsa anche per Jacopo De Francisco, in carica sì, certo. Dal 22 giugno 2015, ha preso 1 milione, di cui 700.000 euro come bonus d'ingresso. Non ho mai sentito questo. Il manager che Iorio ha portato con sé, per cui se voleva per lui valeva anche per quelli che aveva portato con sé. No, ho capito, però... Allora, sì, c'è un principio, però, scusatemi, no, io esco pazzo. A parte che c'è un ascoltatore che mi chiede perché non parla della troica che la Merkel vuole introdurre in Italia. Lei è a 90 gradi sulla Merkel, guardi tante cose, ma che io sia a 90 gradi nei confronti della Merkel, boh, ascolto un altro programma. Però adesso vi arrivo a questo. Ma un'ultima nota: noi diciamo sempre che le banche non possono fallire, ed è vero, non lo possono fare in quasi nessun paese, neanche in Gran Bretagna hanno fatto fallire, né Northern Rock, ma soprattutto la Bank of Scotland, perché hanno un effetto sistemico a slavina, creano un danno terribile, un effetto domino, per cui tu rischi di avere la corsa agli sportelli bancari e non le puoi far fallire. Ma se allora non puoi fallire, almeno partendo da questo principio, per cui tu comunque devi salvarla sta banca, mettiamo un tetto agli stipendi, perché se no, allora, nel privato uno è un amministratore delegato, poi fallisce, spesso magari è anche proprietario dell'azienda, per cui i cocci sono suoi, ma se tu vivi in uno status particolare per cui de facto non puoi fallire veramente e hai anche dei margini diversi come amministratore delegato, almeno... E dovremmo salvare noi, vedi il caso del Monte dei Paschi di Siena, ma almeno mettiamo un tetto complessivo, no? Non è una violazione di mercato, però voglio dire, e su questo l'ABI, lo ridico, chi mi scrive su Patuelli, io stimo Patuelli, è un signore elegantissimo che parla con un linguaggio risorgimentale, ma avessi mai sentito una volta dire presidente dell'ABI è scandaloso avere certe buonuscite, è scandaloso avere certe remunerazioni, è scandaloso che Zonin e Consoli abbiano avuto i milioni per distruggere la banca, lascia stare quello che hanno fatto durante, ma anche per andarsene da una banca che, cioè, voglio dire, adesso vedremo, sì, hanno votato le azioni di responsabilità. Comunque, Fabio, il tema appunto è quello, nel senso che basterebbe decidere che si danno remunerazioni fisse adeguate e tutto il di più diventa variabile, ma deve essere legato ai risultati. Allora, se tu hai banche perennemente in perdita, tu ovviamente non devi prendere nessuna retribuzione variabile, perché il valore non l'hai creato. Mi sembra una roba veramente di buon senso. Ma guardate che da questo punto di vista si avvicinano due estremi, tra quello il privato del mondo bancario e i bonus dati a pioggia al 99% dei dirigenti della pubblica amministrazione, cifre molto inferiori, però sempre tutti raggiungono il risultato, anche perché delle volte il risultato è metti online il tuo database, capirai. Però si avvicina allo stesso principio, cioè che tu gestisca bene o male, comunque guadagni, magari guadagni un po' di più se gestisci bene, ma guadagni tantissimo anche se gestisci male. Questa è la cosa abbastanza inspiegabile. Direi di sì. Veniamo al tuo ultimo commento invece sul quello che sta succedendo al resto delle banche in questo paese. Abbiamo visto una fiammata incredibile della borsa, appunto con Unicredit più 12,80 e le altre con rialzi tra il 7 e il 9%. L'ascoltatore mi dice qui sta arrivando la troica, io non ho visto nessuna richiesta di aiuto al fondo ISM. In realtà mi sembra che il mercato stia scommettendo che ormai il Monte dei Paschi lo salviamo noi. È probabile che sia proprio questo, cioè un dato da ricordare sempre è che le banche oscillano moltissimo, cioè venivano da perdite del 4-5%. Non parlo di ricoperture perché so che non ridirebbe. Io direi piuttosto un'altra cosa, che visto i prezzi veramente bassi a cui trattano, cioè le banche italiane in media valgono in borsa il 20% del loro capitale, quindi veramente un prezzo stracciato, basta una notizia in cui si percepisce che il caso MPS non viene lasciato affondare, e quindi si crea comunque una rete di protezione, che sia pubblica o meno, probabilmente pubblica, che dà là agli acquisti massicci, perché proprio vieni da un settore che è stato fortemente penalizzato negli ultimi 5 anni. Cioè, al di là dei movimenti giornalieri, la giornata di oggi forse sta a significare che dal mercato americano, dall'estero, hanno pensato, forse percepito, che ovviamente MPS non può essere lasciata al suo destino. Questo quindi vuol dire aprire una rete di sicurezza sul sistema bancario italiano, forse si chiederà anche l'aiuto al fondo salva stati, e quindi ovviamente ci si posiziona in forte anticipo, perché si pregusta il fatto che le banche a quel punto dovrebbero avere dei rally di borsa. Penso che la spiegazione sia questa in realtà. Sì, tra l'altro tu fai bene a ricordare che i valori erano così bassi che c'è anche una voglia di tornare a ricoprirsi, però uno vuole aspettare qualche elemento in questo certo, caso. Ma l'elemento è certo. Il mercato poi gioca sempre in anticipo ovviamente, sì. Quindi basta un chiacchiericcio, basta un rumor, perché poi il mercato dica va bene, Unicredit vale il 30% del suo capitale, io un chip lo metto perché basta che faccio un rally del 20%, anche sì. Perché poi appena fai un 20% gli stessi investitori tendono a vendere. Per portare sì, va detto profitti. Che oggi sono cresciute tutte le banche tranne il Monte dei Paschi, ma è, da come viene letto da molti osservatori, è più la ricopertura su banche che hanno... fondamentali migliori, che erano state vendute perché si vendeva tutto il sistema bancario italiano. Monte dei Paschi è rimasto un po' più al palo e vista la giornata neanche poco, più 1,20%. Grazie a Fabio Pavesi, andiamo sul traffico e poi parliamo del rapporto di Istat di una forchetta sociale, la forbice tra i più poveri e i più ricchi, che è andata aumentando tra il 2009 e il 2014 e anche nel 2015. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Focus Economia. Non è soltanto una crisi di reddito, quella del ceto medio, la cetomedizzazione che noi abbiamo cantato nei rapporti degli anni fra il 75 e l'80, è stato un grande processo, ma non era l'ascensore che saliva sempre, questo non è mai avvenuto. E la crisi del ceto medio che c'è non è economica, così come le distanze sociali non sono più come sembravano 2 o 3 anni fa in crescita, sono sostanzialmente distanze sociali, perché sono tutte distanze infracategoriali. All'interno dell'industria, all'interno delle banche, si sente la distanza fra l'operaio e il ricchissimo amministratore delegato, ma nei fatti. Allora questi due miti, che noi abbiamo una crisi economica senza sbocco, non è vero. Questo è un paese che va avanti, che regge bene, che ha retto benissimo la crisi attraverso una logica di difesa nella sobrietà, nel controllo dei consumi, nel controllo di se stessi, nel suo scheletro contadino. Ed è una società che si ritrova oggi, dopo tanto sforzo, 4 filiere di grande sviluppo, di grande forza, che in qualche modo continua ad esserci. Allora, questo era il presidente del Censis nel rapporto di venerdì scorso, dice attenzione, non si sono ampliate, sono dentro le singole categorie, però il rapporto dell'Istat di oggi, che si ferma un anno prima, anche un paio d'anni prima in realtà, dice che 1 su 4 è a rischio povertà o esclusione in Italia, 28,7%, ma il dato più il rischio di povertà è al massimo da almeno 11 anni, al 19,9%. Però la cosa interessante, secondo me, è tratto per rischio di povertà, sì, risulta a rischio di povertà chi vive in famiglie che nel 2014 avevano un reddito familiare equivalente o inferiore al 60% del reddito mediano, ossia da 9.500 euro annui per un nucleo di una sola persona adulta. Ma la cosa che più mi interessa è la parte di dinamica, cioè la forbice dei redditi si è allargata. Dal 2009 al 2014 il reddito in termini reali cala più per le famiglie appartenenti al 20% più povero, e la distanza tra le famiglie più ricche e quelle più povere va da 4,6 volte il reddito a 4,9 volte, tant'è che l'indice di Gini, quello che misura la disparità sociale, è a 0,324, stabile rispetto all'anno precedente. Metà delle famiglie ha un reddito netto non superiore a 24.000 euro, ossia 2.000 euro netti al mese. Professor Magatti, che preside alla Facoltà di Sociologia alla Cattolica di Milano e studia proprio i temi, le dinamiche sociali, buonasera. Buonasera a voi. Allora, la battuta è facile. È perché è aumentata la diversità, la forchetta, la forbice nel ceto medio, che noi assistiamo anche a questi, mi riferisco al referendum, c'è chi l'ha applicata anche per Trump come analisi, a questi smottamenti rispetto alle attese nella reazione dell'opinione pubblica quando si va a votare? Beh, in senso ampio sicuramente sì, poi ci sono tante mediazioni in mezzo naturalmente. Credo che per come leggo io questi dati, sia la Brexit, sia Trump, sia il referendum, c'è una quota rilevante di popolazione che vede gramo il suo futuro, e un'altra parte che addirittura ha un livello di sfiducia che la propria condizione possa migliorare in qualche maniera. Però una volta si studiava che la povertà, al di là di quella assoluta, e quindi di chi ha proprio a valore nominale, è anche e soprattutto un elemento relativo. Cioè, se io vedo tutti gli altri che aumentano il potere d'acquisto, io anche se non lo diminuisco mi sento più povero, per farsi capire. Certo. Allora qui il problema mi sembra non solo il potere d'acquisto della fascia media che scivola, ma anche il vedere che c'è una parte, diciamo, del paese, prima commentavamo gli stipendi di alcuni banchieri, che continua a aumentarlo. Cioè, se tu avessi visto uno scivolamento complessivo, ti saresti forse sentito meno povero. Sì, questo effetto sicuramente c'è, nel senso che noi ci confrontiamo sempre con qualcun altro, quindi i valori assoluti hanno, come si diceva adesso, un'importanza relativa. E soprattutto poi c'è questo tema del confronto con altri, ma c'è anche il tema degli anni che passano, cioè anni dopo anno si annunciano riprese, rilanci, il PIL che aumenta e uno non vede succedere niente e quindi in qualche modo si risente. Senta, Magatti, visto che lei ha scritto anche una cosa interessante sulla, diciamo, questa necessità di correre al cambiamento ma senza una direzione che un po' avviluppa o si impadronisce di tutti i partiti, il cambiamento, per carità, è giusto che un partito ponga il cambiamento. Se non è che è su questo che Renzi, al di là del referendum in questo caso, non voglio parlare del referendum, e voglio parlare di quello che è successo, dello scollamento tra il percepito di Renzi quando fu nominato e il successo europeo, e poi il continuo percepirlo come sempre più distante dal... Non è su questo che lui si è giocato il consenso, perché la rotamazione aveva dato l'idea di cambiare, aveva dato i suoi risultati. Non è sul fatto di dire il paese sta cambiando, l'Italia ha girato, l'Italia va meglio, che e il percepito nei confronti dell'ex presidente del consiglio uscente si è andato ampliando? Ma credo che abbiano giocato due fattori. Uno, quello che hai detto tu, cioè lui ha continuato ad annunciare il cambiamento, e per tanti italiani questo cambiamento non si è visto, si è visto molto poco. No, l'altro aspetto che io sottolineo è che Renzi, secondo me, resta prigioniero di un immaginario che è quello di 15 anni fa. Se si guardano anche le elezioni in America, ma anche quello che sta succedendo in Inghilterra e in fondo anche quello che succede in Spagna, il tema non è adesso avremo una grande stagione di crescita, liberalizziamo tutto e ci sarà vantaggi per tutto. Il tema è invece fondamentalmente ricostruiamo un patto, un'alleanza, ridefiniamo dei confini, stabiliamo delle regole. Cioè il clima è cambiato, e la cosa che mi impressiona è che Renzi, che è più giovane di me, faccia fatica a leggere questo nuovo tempo. Cioè lui avrebbe dovuto proporre un patto tra corpi sociali, si sarebbe detto una volta? Ma sostanzialmente io credo che anche questa campagna elettorale del referendum, lui diceva abbiamo rimesso in moto l'Italia, approviamo il sì che tutto cambierà, e come dire torneremo a correre, la gente a questo mantra qui non ci crede più, cioè capisce che qui non si tratta di mettersi a correre ma si tratta di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi effettivamente insieme. Questo perlomeno è il mio sentiment, cioè che lui abbia avuto un linguaggio che larga parte della popolazione ormai considera del tutto vetusto. C'è una cosa in cui potevi credere negli anni 90, ma non adesso che hai capito che la globalizzazione è strutturale, non è solo la crisi di Lehman Brothers e quant'altro, ho capito bene? Sì, esatto, cioè lui sta usando un linguaggio, infatti lui ogni tanto si fa riferimento a Blair, e fare riferimento a Blair francamente in questo momento lo trovo del tutto fuori tempo. Non è più aria per Blair, nel senso, esatto, che la terza via aveva un senso a metà degli anni 90, certo, ma non c'era anche la Cina, non c'era la globalizzazione, sì, in questo senso, non c'era stata la crisi. E questo spiega, spiega due dati più forti di questo risultato, sì, che sono il voto molto pesante al sud, dove appunto l'idea di mettersi a correre francamente è l'idea dei giovani. Quello è anche nelle aree del nord, a mio avviso. Comunque i giovani sono d'accordo con lei. Dove abbiamo percentuali di disoccupazione ancora così alte che, come dire, l'idea che ci mettiamo a correre francamente a molti suona addirittura. No, ma poi che una persona, un politico che aveva fatto dell'essere anche giovane, giustamente un elemento di forza, venga non votato proprio dai giovani, la dice lunga sulla interpretazione che hai sbagliato e sulla narrazione che hai toppato. Grazie anche a Mauro Magatti, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.